Globetrotter 24 di Annarita D'Ambrosio e Valeria De Rosa. Ben ritrovati, in nuovo appuntamento con Globetrotter 24. Valeria, una puntata tutta italiana. Sì, andiamo da nord a sud in questa puntata, non siamo omogenee da un punto di vista geografico. Facciamo un po' di mare, ma ci soffermiamo anche al nord su una tua segnalazione, che però non sveliamo subito. Sveliamo invece la mia, che è un'isola che mi è molto cara anche per la vicinanza geografica al luogo nel quale sono nata. Ti porto a Procida. We're having a blast on the rocks of Procida. You're missing out if you're not here. Valeria, in questa puntata gioco in casa e ti porto a Procida, isola del Golfo di Napoli, meno famosa di Ischia e Capri, ma certamente non meno bella. Anzi, io sono davvero innamorata e la trovo anche meno caotica delle altre due. Lo confesso, me ne sono innamorata anche grazie ad un film. Sonora del Postino, l'ultimo indimenticato film di Massimo Troisi. Il set del film non è il porto principale dell'isola di Procida, dove arrivi con il traghetto o l'aliscafo da Napoli e già ti incanti subito perché la vedi Procida colorata, fantastica. Il Postino è girato in un porticciolo più nascosto nel paesino della Corricella, dove fra le altre cose ti consiglio anche di fermarti a dormire. Affacciata sul porto, di fronte alle reti ammassate dei pescatori, c'è la locanda del Postino, il luogo dove nacque l'amore tra Massimo Troisi e Beatrice, che era interpretata da una giovanissima Maria Grazia Cucinotta. Alla locanda del Postino si può cenare, si può anche prendere solo un caffè. All'interno c'è un'intera parete dedicata al ricordo di quel film, immagini, citazioni. In un angolo, pensa, quasi nascosta, troverai la borsa marrone da Postino, l'originale borsa che fu utilizzata per le riprese del film. Un altro luogo simbolo di quel film, e ti confesso che è la spiaggia da me prescelta ogni volta che vado a Procida, e ci vado abbastanza spesso, è la spiaggia del Pozzo Vecchio, oramai rinominata la spiaggia del Postino. Anche qui nel baretto che ti accoglie appena arrivi ci sono un po' di foto dei protagonisti del film. Come tutte le spiagge di Procida, anche la spiaggia del Pozzo Vecchio è in parte libera. È libera all'inizio e alla fine dell'arenile. L'altra parte è privata, quindi si possono noleggiare lettini, sdraio e ombrelloni. Si noleggiano direttamente dai gestori del baretto. La spiaggia è a ferro di cavallo e pensa che per anni è stata poco frequentata. E sai perché? Perché costeggia il cimitero e quindi a molti faceva impressione. Procida la puoi raggiungere in autobus, quelli diretti al cimitero. A piedi si raggiunge invece dal porto in una ventina di minuti, una bella passeggiata un po' in salita. In caso di mareggiata e a seconda delle correnti, l'acqua potrebbe non risultare proprio limpidissima. In questo caso però basta spostarsi in circa 10 minuti con gli autobus che passano davanti al cimitero dall'altro lato dell'isola, perché quando ci sono le forti correnti dalla spiaggia del cimitero, poi le altre spiagge dell'isola, quella della Chiaiolella e la spiaggia della Chiaia, invece sono limpidissime. A Procida è possibile scegliere di fare il bagno sia in una spiaggia che sulle rocce. Le spiagge però dell'isola sono tutte piccole e molto particolari. La sabbia è scura e granulosa. Le spiagge più comode e facilmente raggiungibili sono quelle della Marina Grande, la Lingua e la spiaggia delle Grotte. Queste te le consiglio decisamente per una vacanza con i bambini. I bimbi si incantano anche al racconto sull'isolotto di Vivara, che si trova tra Procida ed Ischia. Vivara è sottoposta alla giurisdizione del comune di Procida, cui è collegata da un ponte che non è transitabile e che sostiene, pensa, la condotta idrica che rifornisce Ischia. È attualmente disabitata ed è una riserva naturale statale, ma attenzione, di proprietà privata. Dal 1940 è stata ereditata da un ente morale, Albano Francescano, che nel 2012 ha tra l'altro finanziato i lavori di messa in sicurezza dei pochi immobili che si trovano sull'isolotto, che sono risalenti all'epoca borbonica. Il proprietario precedente di Vivara era Domenico Scotto Lacchianca, medico locale e armatore, che trasformò il posto in una stretta e lunga distesa di vitigni e frutteti. Pensa che c'è una curiosità: nel 2001 Vivara è entrata nel Guinness dei primati grazie al ponte tibetano più lungo del mondo, costruito tra il promontorio di Santa Margherita Procida e l'isolotto. C'è un dibattito da anni in corso sull'apertura dell'isola al turismo, però non si riesce a trovare una soluzione. Come arrivare a Procida? Procida si può arrivare da Napoli oppure in nave da Pozzuoli e da Ischia. Sul fronte costi è sicuramente più economica delle vicine Capri ed Ischia e ci sono varie opzioni per trascorrere un po' di giorni. Io ti do un consiglio, non tanto a te che hai sangue napoletano, ma forse più ai nostri ascoltatori. Le isole del Golfo di Napoli sono bellissime, ma se vi è possibile visitatele fuori stagione perché sono ancora più belle. Anna, devo dirti che tra Ischia, Procida e Capri ho sempre preferito Procida perché è quella più selvaggia, la trovo più autentica rispetto alle altre due. Vabbè, Capri ormai è molto molto VIP, molto costruita però secondo me. Ischia è più grande, è più dispersiva, devo dire che Procida mantiene quell'autenticità che le è propria da sempre. Merita una visita sicuramente, la segnaliamo a tutti gli ascoltatori. Segnaliamo anche a questo punto i consigli di Salvatore Carruba proprio su Procida. A Procida è quasi d'obbligo leggere L'isola d'Arturo, che peraltro è uno dei più bei romanzi italiani del Novecento, di Elsa Morante, del 1957, pubblicato da Einaudi, un classico esempio di romanzo di formazione in cui cioè il protagonista, ormai adulto, racconta della propria adolescenza vissuta da solo in un castello diroccato che assume un carattere quasi fiabesco, che ben presto lascerà spazio a una realtà assai più complessa che lo porta ad abbandonare proprio l'isola. E a Procida si svolge parte di un film famosissimo, Il Postino, con l'indimenticabile Massimo Troisi. Per rivivere l'atmosfera del film c'è il libro dal quale fu tratto, e cioè Il Postino di Neruda di Antonio Scarmeta, scrittore cileno. Il libro è pubblicato da Garzanti e narra del rapporto tra il postino Mario, appunto, col grande Pablo Neruda, che allora era l'unico abitante di un'isola sperduta e che di lì a poco avrebbe svolto un ruolo determinante nella politica cilena e poi vinto il premio Nobel per la letteratura. Valeria, ringraziamo allora il nostro Salvatore Carruba per le sue segnalazioni. Ci soffermiamo sulle curiosità da fare in Italia, non solo a Procida, perché come detto questo appuntamento, quando le mete sono italiane, si estende. Siete in Italia? Di cose da fare, anche fuori dagli schemi, ce ne sono a centinaia. Si potrebbe cominciare facendo un giro in barca sul lago di Como. Potreste anche affidarvi ai traghetti che collegano una sponda e l'altra del lago. Un modo comodo, anche se non veloce, ma in questo caso la lentezza è un valore aggiunto, per scoprire più di uno dei paesini arrampicati sulle sponde. Se siete a Venezia o nei dintorni e avete già fatto il giro di San Marco, del Ponte di Rialto, dei Calli, del Ghetto, a volte sottovalutato, andare a sbirciare gli artigiani di Murano è senz'altro un modo alternativo per ammirare l'isola e farsi stupire da un'attività antica e purtroppo in via di estinzione. Per visitare la città eterna avrete di certo acquistato una guida, forse più di una. Vi sarete persi online per annotare tutte le particolarità? Bene, per un pomeriggio abbandonate le guide, entrate ai fori e camminate senza seguire un ordine, con il naso in su. Potrebbe restare nella vostra memoria come uno dei pomeriggi più belli. Esperienza da ripetersi sulla via Appia Antica, magari in bicicletta e a Ostia Antica. In Sicilia, terra di cultura e di sapori, noi vi proponiamo i vulcani. L'Etna vale certamente la pena. Escursioni organizzate di varia difficoltà, spettacolo ed emozione garantiti. Ma se siete coraggiosi e l'adrenalina è ciò che cercate, lo Stromboli è quello che fa per voi. Se potete, salite da Ginostra e scendete, versante sabbioso, verso Stromboli. Fermatevi al bar Ingrid. Vi sarete meritati un cannolo da applauso. Anna, potremmo prendere nota, perché magari qualcuna di queste cose strane potremmo farla anche noi, chissà, magari a settembre. Ci troviamo, decidiamo di sceglierne una e di farla e di seguire questo consiglio. Adesso però ci fermiamo per qualche istante e ci ritroviamo tra pochissimo. A volte basta accendere la radio per ritrovarsi comodamente seduti al cinema. Arrivarono con il vento di carnevale Vian e sua figlia Anouk, che a 6 anni il mondo aveva ancora una luce speciale. Audiogrammi Reloaded, una storia come non l'avete mai ascoltata, di Paolo Corleoni e Laura Faggin. Sabato alle 15 e domenica alle 23 su Radio 24 e in podcast su radio24.it. Globetrotter 24. Ben ritrovati, puntata tutta dedicata all'Italia. Nella prima parte, Anna, ci hai portato a Procida, ci hai portato al mare, ci hai portato nel villaggio dei pescatori a mangiare pesce. Adesso io invece però ti porto al nord e ti porto a Vigevano. Lo faremo insieme il problema. Voi, il maestro Nanini ed io. Aprite i vostri quaderni, prendete le vostre penne. Su, insieme ragazzi. Dunque, una massaia per andare al mercato percorre 3 strade. Una di metri 52, una di millimetri 1425 e un'altra di centimetri 10.450. Compra. Attenti ragazzi, 15 decilitri di latte e 820 grammi di mele. Quanti chilometri percorre la massaia se ha dimenticato le mele dal lattaio? Lascia le mele dal lattaio, ritorna indietro. Ma perché lascia le mele dal lattaio questa? Poi a me mi viene 15.000 chilometri. Cammina 10 anni. Basta, andiamo da Amiconi, Nanini. Ci parlo io con Amiconi. Basta, buttiamo tutto. Io non gliela faccio più. Non voglio. E a me mi scoppia la testa. Sono 6 ore, Nanini, che lavoriamo. Basta, ci parlo io con Amiconi. Amiconi è un amico, lo dice la parola, Amiconi. Il maestro di Vigevano, un film del 1963 di Elio Petri, un grandissimo Alberto Sordi in questo problema impossibile. Anna, ho scelto Vigevano perché è stata una delle piccole, e non me ne vogliano i cittadini che sono venuta a visitare dopo essermi trasferita a Milano. Piccola per modo di dire, perché comunque Vigevano ha più di 60.000 abitanti. Quindi non è solo la piazza, Piazza Ducale, che già da sola devo dire vale il viaggio. Stile rinascimentale, hai quasi l'impressione di essere entrata in un salotto quando varchi la soglia di questa piazza. Un salotto imponente perché è una piazza lunga oltre 130 metri e larga quasi 50. Su un lato c'è la cattedrale, la chiesa cattedrale di Sant'Ambrogio. Sugli altri 3 si affacciano edifici omogenei tra loro con i portici, come se si trattasse di una grande corte interna. E infatti la sua costruzione iniziò per volere di Ludovico il Moro come anticamera del castello, divenuto poi residenza ducale, la cui torre svetta sulla piazza. Il fatto che il Duomo o cattedrale, principale chiesa della città, abbia anche la facciata concava la rende quasi unica al mondo. Alle spalle della piazza, lo dicevamo, c'è il castello. Furono i Visconti a dargli la forma che noi vediamo oggi tra la fine del XIII e il XIV secolo. Un lavoro che proseguì con ogni sforza. Il complesso è severo, è lineare, pulito, devo dire forme che a me affascinano molto. La torre d'ingresso è del Bramante. Oltre alle chiese e al castello, da segnalare anche Palazzo Crespi, con il quale si cambia decisamente stile. Al momento ospita la biblioteca, ma è un palazzo che ha una storia lunga, attraversata anche dal fascismo. Il centro storico di Vigevano è medievale. Molte piccole piazze, viuzze. In occasione del palio, organizzato ogni anno dalla città presso il castello, si sfidano a un torneo 12 contrade che, anche se di recente istituzione, riprendono in parte le originarie contrade quattrocentesche. Anche a Vigevano, insomma, c'è da camminare, dopo essere arrivati anche comodamente in treno da Milano. Se poi vi fermate, l'occasione può rivelarsi davvero propizia per risalire il Ticino. Il Parco del Ticino è il più grande parco fluviale d'Europa e segue appunto il fiume, partendo dalla provincia di Varese, dove esce dal Lago Maggiore nel comune di Sesto Calende, fino a Pavia, dove poi confluisce nel Po. Si può andare in bici, ci sono anche dei bike hotel, oppure a piedi. I percorsi sono differenziati a seconda degli interessi. Il sito è www.parcoticino.it. Se avete optato per questa soluzione, allora sarete arrivati anche al Lago Maggiore, il lago che si divide metà in Lombardia, metà in Piemonte e la testa in Svizzera, e che non è il più grande dei laghi italiani a dispetto del nome. A questo punto dovrete scegliere da quale lato del lago procedere: Ispra sulla sponda destra, Arona e Stresa sulla sponda sinistra. E già che ci siete, varrebbe la pena anche di andare a vedere il lago d'Orta. Separato dal Lago Maggiore da colline molto dolci, è considerato un posto molto romantico. Così lo descriveva Balzac: un delizioso piccolo lago come il Lago d'Orta ai piedi del Monte Rosa, un'isola adagiata nelle sue acque calme, civettuola e semplice, naturale eppure adorna, solitaria e ben accompagnata. Eleganti boschetti d'alberi, statue di bell'effetto, d'intorno rive ora coltivate, ora selvagge, il grandioso e i suoi tumulti al di fuori, dentro le proporzioni umane. E proprio come diceva Balzac, il cuore del bacino è l'isola di San Giulio, l'elemento che più di altri lo caratterizza, situata a due passi dal promontorio sul quale sorge il suo borgo Orta. Gioiello romantico dell'isola è la Basilica di San Giulio, con facciata e scalinata che danno direttamente sull'acqua. San Giulio è sepolto all'interno della basilica e le sue spoglie sono custodite in un'urna. Anche in questo caso vi può essere molto utile il sito www.lagodortaturismo.it. Che bella Vigevano, poi soprattutto non molto lontana dal posto dove lavoriamo e quindi possiamo visitarla anche più spesso. Ci sono adesso, Valeria, le nostre preziose segnalazioni letterarie di Salvatore Carruba. A Vigevano pure una lettura è d'obbligo, quella del libro che fece molto scalpore negli anni 60, quando Vigevano era diventata la capitale della scarpa e uno dei simboli del boom. Il libro si intitola Il maestro di Vigevano, di Lucio Mastronardi, che a Vigevano nacque e morì, giovane. Il libro è pubblicato di Einaudi, ne fu tratto un film di Elio Petri, di cui è protagonista Alberto Sordi, e il libro racconta proprio dei traumi che l'industrializzazione spinta stava provocando su un'intera società, in particolare su un ceto sociale, quello del ceto medio intellettuale. E il libro rappresenta la seconda parte e la più famosa di una trilogia che si completa con Il calzolaio di Vigevano e Il meridionale di Vigevano. Vigevano è città leonardesca. È stato appena aperto un nuovo museo dedicato a Leonardo, che probabilmente, anzi quasi sicuramente, passò e operò nella città. Quindi in questa occasione potete leggere il libro di Valentina Fortichiari, Vita di Leonardo da Vinci, pubblicato da Sedizioni Editore. Anna, non di soli libri si vive, per cui questo è il momento del nostro gastronauta. Il nostro Davide Paolini ci accompagna anche questa volta tra le bellezze da mangiare e da bere. Partiamo da Vigevano. Vigevano è una località che ha due caratterizzazioni: una il riso e l'altra l'oca. Sono due tradizioni locali. che nel tempo storicamente si sono sviluppate, perché nei dintorni ci sono allevamenti di oche e quindi viene trattata l'oca, diciamo, in tutte le sue forme, tutte le sue abitudini e usanze, perché l'oca è un animale di ottima carne che può venire utilizzato sia come carne fresca ma anche poi alla fine stagionato, perché ad esempio c'è il petto d'oca che è un qualcosa di veramente gustoso, e un risotto con le carni d'oca può essere la soluzione di combinare queste due cose. Ma il riso, lo sappiamo, è il vanto dell'Italia. La parola risotto, a quanto pare da indagini che sono state fatte, è il piatto che più viene conosciuto all'estero, quindi la zona dove si produce riso è famoso ovviamente per tutte le forme in cui viene usato il risotto, perché può essere fatto con le erbe, può essere fatto con la carne, può essere fatto col pesce, quindi ci sono tantissime maniere per poter fare il riso. E anche l'oca può essere cucinata in tantissimi modi, ad esempio l'oca al forno. E devo dire che sempre più l'oca viene utilizzata, non dimentichiamo che nella cucina kasher sicuramente l'oca veniva usata proprio per sostituire il maiale, e ci sono anche tanti salumi a base d'oca, a cominciare dal salume, appunto dal salame d'oca, che è una delle cose più procciate, più diciamo ricercate. Beh, Procida è un'isola dove, a quanto mi racconta sempre un amico ristoratore di Ischia, dove c'è un pesce straordinario e molti vanno a fare rifornimento proprio dai pescatori di questa isola. È evidente che è un'isola dove la cosa principale da fare è mangiare il pesce, perché in quell'area lì veramente la pescosità del mare è molto alta, quindi quello che consiglio è: qualsiasi posto dove andate chiedete pesce, magari in tante maniere, e che in quelle zone lì sicuramente hanno tutta una serie di usanze e di tradizioni che possono interessare, possono essere anche originali. Valeria, dopo le gustosissime segnalazioni di Davide Paolini, noi concludiamo questa puntata. Siamo ai saluti. Prima vi ricordo il nostro indirizzo email: globetrotter24@radio24.it. Alla prossima puntata.